Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Chi vi parla è Roberto Galullo. Stiamo parlando da ieri dei rapporti bilaterali Italia-San Marino. Sono vicine le firme per accordi storici, però c'è qualche inchiesta giornalistica italiana e non solo, insomma, che mette un po' di pepe ai rapporti fra le parti, scovando, come dire, alcune falle che dall'una e dall'altra parte devono essere coperte. Con il segretario di Stato all'Industria della Repubblica di San Marino, Marco Arzilli, abbiamo cominciato a parlare di quello che è un episodio abbastanza grave, e lo riconosce ovviamente lo stesso governo di San Marino, che ha istituito una commissione di inchiesta. Stiamo appunto parlando del caso Licenzopoli. Ve la faccio breve, ve la sintetizzo la questione. Si tratta di una sentenza emessa e resa nota alle parti alla fine del giugno del 2009, nella quale si mettevano in evidenza una serie di grosse falle nei controlli di chi andava ad insediarsi nella Repubblica di San Marino per fare affari. L'accusa aveva individuato in un ragioniere una persona, appunto, che avrebbe dichiarato il falso e truffato gli imprenditori. Scagionato da ogni accusa, il caso è stato completamente archiviato. Il ragioniere è stato quindi mandato, nemmeno assolto, proprio perché è stato archiviato il caso. Però la sentenza ha messo dei punti chiave, e nel momento in cui si devono firmare degli accordi è ovvio che bisogna fare trasparenza tra le parti in chi si insedia a San Marino, quindi ci vuole la massima trasparenza e comunicazione tra le parti. Ed è per questo che io do il buongiorno e il benvenuto nuovamente al segretario di Stato Arzilli. Buongiorno Arzilli. Buongiorno dottor Galullo, buongiorno. Allora, ieri eravamo rimasti appunto ai controlli che voi avete avviato, avete scatenato, ha già portato alla cancellazione di 60 attività. Abbiamo parlato anche del paradosso, diciamo così, di un prestanome che si poteva insediare a San Marino. Quindi va dato atto alla Repubblica di aver fatto quello che ha fatto. Io però a questo punto vorrei farle una domanda. Le sentenze si rispettano, io l'ho scritto sul blog trattando il caso Licenzopoli. Questo però non esime anche da alcune critiche, da alcuni ragionamenti che si devono fare serenamente tra le parti. Ecco, le chiedo, come è possibile, io le leggo le mie, non le mie parole, ma le parole di Marco Gerevini, che il 29 ne ha scritto sul Corriere della Sera. Ecco, lui testualmente scrive: la legge c'è, ma non può essere applicata perché manca l'archivio, e chi commette reato violandola se la cava perché è come se la legge non ci fosse. A San Marino ignorantia legis excusat. Quindi mi scuso se la pronuncia in latino è sbagliata, perché se no arriva qualcuno che scrive, già lo so, già me lo sento e chiedo già scusa. Ecco, questa considerazione finale del collega Gerevini, lei come la commenta? Ma intanto io sono consapevole del fatto che l'ignoranza della legge, insomma, non è molto opinabile, insomma, cioè se ci sono dei professionisti che, insomma, hanno agito in maniera poco chiara, insomma, il tribunale deve andare a intervenire. Ripeto, io lo dico in carattere generale, perché comunque ci sono sempre due parti in gioco, no? Cioè, in questo caso c'è la parte pubblica che deve fare il suo ruolo, e poi c'è il privato che però si deve anche comportare in un determinato modo. Le leggi vengono fatte apposta, no? Certo. Per mettere le cose in chiaro. Io ripeto, io non voglio essere ridondante, mi deve scusare, siccome ancora ci sono dei procedimenti in corso penali, sulla sentenza dico poco, anche perché le ho già detto l'altra volta, credo nella separazione dei poteri. Benissimo, fatto benissimo. Fatto sta che però non si può assolutamente non intervenire, perché comunque i problemi ci sono. Ecco, lei ha letto anche le dichiarazioni del comandante della Guardia di Finanza di Rimini, il quale va giù pesantemente, mi pare di capire, ma mi corregga se la sua opinione è diversa, proprio su quello che è accaduto a San Marino. Anzi, dice che voi, come dire, sostanzialmente dovreste pensare un po' più ai controlli e un po' meno a fare immagine. Ecco. Se mi posso togliere un sassolino, ma prego, tutti quelli che vuole, tutti quelli che l'Italia, vuole. Che, eccetera. Siamo sotto fuoco incrociato da parecchio tempo, siamo un po' presi di mira da tutte le parti, e spesso e volentieri si dicono anche cose che forse bisognerebbe provare sul campo. I controlli non solo ci sono, ma c'è una forte volontà politica che, se mi permette di dire, determinano anche le scelte, e le scelte sono quelle della trasparenza, indipendentemente da il comandante Lucignano dica certe cose. Certo. Certo è che mi dispiace, perché in realtà il suo superiore, il colonnello Cecchi, dice che a San Marino ci sono delle bravissime persone oneste che lavorano, ma ci sono delle persone che vengono da fuori, e mi dispiace dire queste cose, che vengono non per usare San Marino come una risorsa o un'opportunità, ma per creare il problema a San Marino. E noi su quelli vogliamo intervenire in maniera pesante. Io sto chiudendo società, cosa come non è mai successo nella storia di questa Repubblica, perché, uso il termine, non siete graditi. Certo, certo. Un'ultima domanda. Sì. È possibile firmare degli accordi prima che arrivi la legge sulla riforma dei controlli interni, vale a dire questa legge di cui stiamo discutendo e di cui lei ieri ci ha detto che la bozza sarà pronta per ottobre? Ponevo questa domanda. Non è come firmare un accordo a metà, o comunque non è come firmare un accordo zoppo, mancando, come dire, il contenuto di una legge fondamentale. La dica onestamente per come la pensa, Arzilli. Io credo che si possano firmare gli accordi, perché ci rafforzano anche per poter avere relazioni, controlli, e la legge sulle licenze diventerà il corollario di tutto un insieme di iniziative che sono già partite. Questo è l'intervento gradito del segretario di Stato all'Industria Marco Arzilli, e come vi avevo promesso, cari radioascoltatori, abbiamo cercato anche altre voci all'interno della maggioranza che governa San Marino sulla vicenda Licenzopoli. Segnatamente abbiamo cercato il segretario di Stato Augusto Casali, che è segretario di Stato alla Giustizia e all'Informazione. Avremmo voluto porgli tantissime domande, sarebbe stato veramente interessante il suo giudizio, ma ci ha fatto sapere telefonicamente la sua segreteria, dopo numerosi contatti, che si fidava totalmente di ciò che aveva dichiarato a Radio 24 il suo collega Arzilli, e quindi non reputava opportuno intervenire. Mi domando e ci domandiamo come sia possibile fidarsi di ciò che dice un collega di coalizione, non perché non siano cose interessanti, anzi le abbiamo sentite, ma senza averle ascoltate, perché sicuramente avrebbe avuto qualcosa da aggiungere Casali, o meglio, noi avremmo cercato di farglielo dire. Così è, però, e quindi noi ne prendiamo atto, voltiamo pagina, e con chi parliamo? Ma parliamo con Fiorenzo Stolfi, che rappresenta il partito, il PSD, che è il partito di opposizione, il maggior partito di opposizione nella Repubblica del Titano, e che è stato segretario di Stato agli esteri nella Repubblica stessa. Buongiorno, signor Stolfi. Buongiorno, buongiorno. Allora, qual è il suo giudizio sulla vicenda Licenzopoli e sulla sentenza che ne è scaturita? Prego. Ma io credo che quella di Licenzopoli indubbiamente sono situazioni non corrette che vanno sistemate. Il sì. Peccato è che, a parte i proclami da parte del governo e dei ministri interessati, vediamo che le parole vanno in una direzione, i fatti dall'altra, perché dopo la sentenza che abbiamo potuto vedere e guardare, sappiamo che non è successo niente. Ecco, in radio il segretario di Stato Arzilli ha ufficialmente dichiarato che c'è una commissione d'inchiesta, che per ottobre ci sarà una bozza sulla legge del 2003 che riguarda appunto i controlli, quindi ha annunciato queste cose. Lei ci crede oppure no? Sì, perché innanzitutto è una commissione di indagine amministrativa, e quindi formata non da magistrati ma da funzionari della pubblica amministrazione. In secondo luogo, la sentenza del giudice Battaglino dice delle cose ben precise, che già mettono in evidenza delle ipotesi di reato ben precise, perché comunque... Ipotesi di reato, ma lei sa perfettamente che una persona sulla quale gravava un'accusa è stata archiviata totalmente la sua posizione, e che quindi, insomma, questa pronuncia, questa sentenza va rispettata, e dice che quella persona nulla aveva a che fare con ipotesi di reato, però rimaneva la gravità della situazione, o sbaglio? Sì, è così, anche se poi nella sentenza, nel dispositivo, vengono messi in evidenza dei fatti accertati nel corso delle indagini, che dimostrano come alcuni professionisti, soggetti sammarinesi, abbiano messo in atto dei comportamenti che sono assolutamente contro legge, perché mettere più aziende negli stessi locali è una sorta di truffa nei confronti dell'amministrazione, oltre che degli imprenditori che poi si erano rivolti a questi professionisti per reperire una sede idonea. Quindi lei dice sostanzialmente anche se c'è stata un'archiviazione nei confronti di determinati soggetti rimane la gravità dei fatti compiuti, o mi sbaglio? Certo, infatti si poteva utilizzare, anzi secondo me si doveva utilizzare il frutto delle indagini del Tribunale, della magistratura, per aprire altri fascicoli, altre posizioni per coloro che le indagini avevano individuato come soggetti che hanno messo in atto delle pratiche illegali e irregolari. Bene. Questo avrebbe dimostrato una volontà vera dell'amministrazione, del governo, di stroncare definitivamente, in maniera anche esemplare, un fenomeno che se non debellato chiaramente crea delle distorsioni. Bene, ricordando che le sentenze in tutti i paesi sovrani vanno comunque rispettate, ciò non esime ovviamente dal continuare, sia per la magistratura che per una collettività interessata che per i giornalisti, a parlarne e a documentarsi. Io ringrazio per il momento il dottor Stolfi, che avremo nuovamente domani con noi per la terza e ultima puntata sul caso Licenzopoli a San Marino. Grazie in regia a Carmelo Lauricella e in studio a Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.